si scioglie la porta. Quando sta per tutta, mi si scioglie la porta. La paura si ferma ancora, mi si scioglie la porta. Mentre scivoli tra le braccia di qualcuno a cui sorridi a stento, cuore mio non ti sento, cuore mio non ti sento. Chiedilo al vento, cosa gli ho detto di te, cosa è venuto a cercare il mio sguardo. Sportivi, Iovo è on air. Vediamo se c'è anche l'ospite speciale on air. Vediamo. Pronto, parla con il signor Sanò? Ci sono. Mi sente, signor Sanò? Ti sento. Ok, iniziamo allora. Allora, benvenuti alla nuovissima puntata di Music Box Populi. Questa volta in diretta radiofonica, da Roma addirittura, quindi dalla capitale. Il nostro carissimo amico Giuseppe Sanò, che però è sprovvisto del signor Lello Anzani. Eh sì. Ecco, quindi allora, per prima cosa, ai nostri ascoltatori una velocissima presentazione della band, di che cosa dice la band, di che cosa parla la band e soprattutto chi è la band. A lei il microfono. Ah, grazie. Niente, noi siamo Anzani Sanò in arte, però in realtà sono i nostri cognomi, quindi grande fantasia. Quindi siamo Alessandro Anzani e Giuseppe Sanò, siamo cresciuti a Catanzaro, siamo vicini di casa anche, e adesso siamo coinquilini qui a Roma. Abbiamo iniziato quindi questo piccolo progetto da poco tempo, dove diciamo che io sono quello che scrive le canzoni e il ragazzo che non è qui presente perché sta facendo esami in università, Madonna cioè santa, no, non li sta facendo, li sta esaminando. lascia stare che mi ha contattato ieri sera tutto ammazzato. No, Giova, scusami un secondo, ma io prima di stanotte non riesco a mandarti le canzoni perché sto troppo male. Tipo, stavo venendo da Ovviamente. 11 ore di esami e Ho dovuto ieri cazzo si è pure ubriacato. Vabbè, ma e mazzo. Madonna questo non lo santa. diciamo, che sennò poi. E Sì, che sennò poi mi prendono per invece lui. degli ubriaconi, sì. Eh sì, esatto, ma lui invece è il musicista, cioè quello che si occupa un po' degli arrangiamenti, di tutto il resto, quindi diciamo tutto il suonato che si può sentire nei nostri pezzi, tranne qualche volta la chitarra, è fatto da lui. Io sostanzialmente scrivo. Diciamo che insomma potrebbe fare tutto da solo, però gli servono i testi, insomma. Il grandissimo maestro Lello Anzani, Il che maestro salutiamo. Lello, esatto, A salutiamolo, proposito di salutiamolo. saluti, apriamo questa parentesi e chiudiamola subito perché è bello salutare le persone. A chi devi salutare? Io a chi devo salutare? C'è qualcuno che devi salutare? Qualcuno che ti ha chiesto il Ah, in saluto dalla realtà radio? no, no, non lo so, salutiamo un po' tutti quanti, il quartiere, salutiamo via Costantino che qua a Roma, salutiamo un po' i colleghi della Sapienza, ma in generale non entriamo nel particolare, dai, nel senso. Ah, prete, ciao mamma! Ecco, te lo stavo per dire, che cazzo, un Ciao saluto alla mamma! mamma, Dio buono. C'ho mamma online, mi dice, ciao mamma! Poi mi metto a studiare, giuro. Sì, buonasera signora, scusi se lo sto disturbando per un'oretta circa. Ma questo, ci doveva essere anche lui in questa nuova esperienza targata Music Vox Populi, che alla voce vede me, appunto, quindi un Mi ha carissimo fatto amico tanto di vostro piacere. figlio, quindi ci doveva essere vostro figlio, perché se non c'era vostro figlio mi sentivo male. Non cominciamo a fare i calabresi. No, no, no, assolutamente non facciamo i calabresi perché sennò se poi si sente non. No, no, lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere. Oh, allora, facciamo che andiamo col pezzo. Con un Vai. pezzo che ho selezionato io, eh. Bello, bello, Ah. bello, bello. Che dedichiamo a una ragazza. Poi, ovviamente, finisce il pezzo, ci descrivi il pezzo, ce lo racconti se vuoi. Va bene, E sì. Ascoltiamo. quindi niente. Ascoltiamo è questa, ladies and gentlemen, boys and girls, Turn the Ball Legends, è Carabì. Amore mio, chiedo scusa se stasera sarò troppo diretto con te, ma questa luna in cielo lo sai, mi mette in agitazione. Mettiamo in chiaro due o tre cose che già sai, io non ti avrò mai, ma stasera io davvero vorrei portarti via dalla tua malinconia, dalla tua malinconia. Piacere se stasera va a ballare con le amiche tue, ma i nostri inverni sono lontani, così distanti dalla tua mente, dalla tua mente, dalla tua mente. La tua sono io, la tua paura più grande sei solo tu, la tua paura più grande sono io, la tua. necessarie per vivere. Più grande sono io. Signor Sanè, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Oh, che bella sta canzone. Che bella, Dio buono, che bella. Che bella, che bella, che bella. Oh, ma se tu suoni solamente la chitarra, Dio buono, sì. Alzo le mani, eh. Cioè, dire solo suono la chitarra, la suoni così. Alzo no, le due mani, no, no. Fai conto che qua per questo brano abbiamo chiamato un amico. Sì. Che si chiama Emanuele Amico, oltretutto salutiamo anche lui. Ti saluto Emanuele Amico, l'amico di tutti quanti. Sì, sì, ma è quel tizio per caso che ho visto là al live che avete fatto, il vostro primo live, insomma. Mm-hmm. C'era là, no, mi pare, no? Sì, sì, era lì. Ok, ok, ho capito il personaggio chi è allora. Perché mi ricordo che mi hai detto questo qua ha fatto... La chitarra, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Sì, almeno gli assoli li ha messi tutti lui. Ecco, quindi non è merito tuo, non so se non è la chitarra, fai schifo e buonanotte al secco. Hai capito tutto, io sono soltanto il cantautoraccio brutto. Però sei bello come il sole, complimenti alla mamma e tanti bacini. Oh, allora, bando alle ciance, dai, raccontiamo il pezzo, a te il microfono un'altra volta, adesso è tutto sì. Tuo. Ok, no, niente, il pezzo è nato quest'estate, così vabbè, scrivo da un pochino, però questo pezzo era nato da una storia abbastanza combattuta con questa B, insomma, nel senso, mi sentivo di dover dire qualcosa, allora mi sono messo a scrivere un testo in forma di lettera, diciamo, infatti è Cara B, appunto, nel senso, sì. Il titolo è quello, e poi... E non è una canzone d'amore in realtà, cioè, non è, il testo non è totalmente d'amore, anzi è un testo un pochino più di... È come sbattere la testa al muro un sacco di volte, insomma. Come fa Goldberg prima di entrare nell'arena, insomma. Tipo, esatto, è come andare a sbattere contro un treno per chi l'ascolta o per chi comunque ha vissuto una cosa del genere. Mi ha sì. Fatto piacere anche che ho avuto un buon riscontro, perché tante persone mi hanno scritto e mi hanno detto, sai, questo pezzo è proprio quello che vuoi dare ad intendere, cioè, nel senso che ognuno dentro di sé ha qualche paura e la paura è sia... che si può avere negli altri, ma soprattutto quella che si ha di se stessi, insomma, quindi diciamo che il principio che mi ha fatto scrivere quel testo è la paura di perdere, la paura di non essere, quindi sì, insomma, perché non entriamo in filosofie che non ci perdiamo. Sì, perché qui poi il nostro carissimo Giuseppe Sanno, sappiamo tutti che è un grandissimo filosofo. Sì, che studia alla magnifica Università di Roma, sta conseguendo il suo... che è? No, che è? Aspetta, la sì, sua laurea... L'ultimo anno di magistrale. L'ultimo anno di magistrale, quindi, cioè, che personaggioni vi porta Iovo a Music Vox Populi, dai, cioè, applauso. Autofatto, poi, fra virgolette. Allora, tecnicamente, la situazione è questa, io tecnicamente avrei un amico. Il Pizzo, che il potrebbe Pizzo. Arrivare da un momento all'altro, dipende da come gli gira, perché lui è molto salto in banco, quindi per il resto, poi magari lo conosci dopo, perché è un bel personaggio. Un calabrese, però se tu dici un calabrese il Pizzo... Sì, ti dice il tartufo. Il tartufo. Cioè, pochi calabresi andrebbero a collegare subito all'intimo, diciamo. Che poi chicca, tutti mangiano il tartufo, ma in realtà la nocciola imbottita anche di Pizzo è molto buona. Sì, annegata sì, nel marsala. Sì, sì, sì, assolutamente. No, che poi, per dirti, a me fa assolutamente schifo il tartufo di Pizzo. Adesso linciatemi. No, dai, non riesco a mangiarlo, non lo so perché. È qualcosa più forte di me. Non so che dirti. Madonna. Vabbè, arte culinaria a parte. Diciamo che quasi quasi è arrivato il momento di un altro pezzo. Poi vediamo se ci raggiunge il pizzo. Forse sì, forse no, forse forse. Diceva un tizio uscito da Amici tempo fa. Che cazzo sono andato a prendere? Allora, il prossimo pezzo è una vostra cover, giusto? Sì, è una nostra cover, è un pochino riarrangiata, anche se siamo rimasti molto sulla linea dell'originale, quindi niente di che. Facciamo che la raccontiamo dopo, perché poi sì. Ovviamente penso che se fate una cover vorrà dire qualcosa anche per voi. Come pezzo, no, come ti parliamo di come nascono le nostre cose, esatto. Le nostre strampalate idee. Ecco, sì, ci sta assolutamente, perché è una maniera in più di conoscere l'artista, diciamo, quindi okay. Tutto quello che può essere interessante per noi è lecito che tu lo dica, quindi vabbè. Facciamo così, cover degli Anzani Sanò, un bellissimo pezzo di Brunori Sas. Signori e signori, quello che si è sparato da solo, si dice. Che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. Un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero. E non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del carro più grande che c'è. Stare sopra un piedistallo e non cadere. Chiedilo a Marilyn quanto l'apparenza inganna e quanto ci si può sentire soli e non provare più niente. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero. Che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti. Sopra un piedistallo a non cadere. Chiedilo a Marilyn quanto l'apparenza inganna e quanto ci si può sentire soli. luce e tornando a dormire. Sa? Si sente? Giù, ci sei? Giupi? Mister Sanò? Mister Sanò, mi sente? Oddio, oddio, oddio, oddio. Mister Sanò pare che non si senta, vediamo un pochettino se è un problema di cavo o qualcos'altro. Mister Sanò? Sì, ci sono io. Ok, allora Dio buono, mannaia la miseria, avevo sbagliato col tasto. Non funzionava più niente, mannaggia la miseria. Scusate radioascoltatori di Music Vox Populi, ma io non ci sto con la testa. Ma c'è una novità, c'è una novità. Sì, c'è una novità, c'è una novità. La dici tu, la dico io. La dici tu, la dico io. No, la dici tu gestisci. Ah, beh, la dico io, la dico io, la dico io. Allora, molto velocemente. Verso la fine della puntata, probabilmente o quando vuole lui, dato che è un one man show, il signor Sanò sarà non il signor Sanò, il signor Anzani sarà dei nostri. Quindi grandissima notizia e soprattutto comunque c'è da dire anche che ovviamente se si collega il signor Anzani, il signor Sanò andrà giù per un paio di minuti, perché se no non si sente uno e ne si sente l'altro, quindi in concomitanza il mio telefono non lo fa fare, non so perché, dice che le frequenze non sono comparabili, no. Non so per quale motivo. Comunque, Kurt Cobain. Kurt Cobain? Che c'è da dire su questo pezzo? Niente, no, tra i tanti ascolti abbiamo anche un po' Brunori e quindi abbiamo deciso di fare questa cover così. Ma le in realtà il bello sarà il discorso su come nascono queste cose, nel senso, sì, torniamo ecco. Un pochino brilli a casa, durante la notte si fanno le tre, tutti dormono, aspettiamo che il sonno sia diventato pesante per tutti. E poi abbiamo questo tipo mini studiolo in camera di Lello dove registriamo della roba. Secondo e me vi ammazzano il giorno questo. Secondo me uno di questi qua vi cacciano fuori in qualche maniera. Sparano. Sì, l'ultima volta, ti dico solo che l'ultima volta abbiamo suonato a Spaghetti Unplugged da Marmo, sì, a Roma, a un locale. Quella che presentava la serata poi ci ha fatto lo scherzo. È arrivato un messaggio da Francesca, che è la signora che abita sotto, dice non fate casino durante la notte. E un po' di bordello lo facciamo. Bene, ma, cioè, la però non insomma, puoi non far casino quando registri un pezzo. E niente, quindi ci mettiamo lì e diciamo magari se ho un pezzo pronto mettiamo a registrare il mio pezzo, oppure ci mettiamo a fare qualche cover. Di solito, diciamo, Kurt Cobain è una delle poche moderne, cioè ne abbiamo tante nuove che portiamo in giro, ma soprattutto poi spaziamo da Tenco a Sergio Endrigo, abbiamo tante cover, soprattutto Lello c'è una piccola pagina dove mette questa roba qui, Lucio Dalla anche, però diciamo che abbiamo scelto un po' questo perché è l'andazzo del periodo, insomma, cioè... E ci piaceva comunque come canzone, una canzone con un testo anche molto significativo e quindi io l'ho scelto anche per questo, abbiamo deciso di farla anche per questo, la sentivo molto, diciamo, e Lello ha fatto un arrangiamento di piano molto bello. Sì, sì, perché il maestro Lello Anzani è qualcosa di impressionante, cioè è troppo bravo. Lo diciamo con un nostro carissimo amico comune che salutiamo, il Mister Leoz. Lo dicevamo durante il primo live, quando si è messo il maestro Lello Anzani al pianoforte da solo. Mi ricordo per quale frangente abbiamo detto, cazzo, che musicista, madonna. Si è sparato un po' di roba, insomma. No, bravo, è un genio. Allora, è genio! È un genio. Allora, trasferendo la... stavo parlando di Kurt Cobain prima, no? Del pezzo di Bruno Lisias. Allora, tu fai finta che io sia ignorante. Io il pezzo, ti devo dire la verità, l'ho sentito, sì, però non conosco il reale significato. O meglio, sì, il reale significato non si sa mai, perché ognuno dà la propria sfumatura, sì, diciamo. Però la tua qual è? La mia non è, il testo, diciamo che ascoltandolo anche è molto chiaro, nel senso lui vuole parlare e trattare un tema che è quello del suicidio. Il tema del suicidio è, diciamo, abbastanza pesantuccio da affrontare, soprattutto in determinate situazioni, però lui è, diciamo, nell'interno delle strofe, secondo me è stato molto chiaro, cioè, vivere come volare ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare, cioè una bellissima immagine, perché poi ti fa capire come bisogna andare a fondo alle cose, e andare a fondo a volte significa anche purtroppo fare un gesto Sì, che non dovremmo starne qui a parlare, insomma, cioè, nel che non senso dovremmo è. fare mai, non si dovrebbe mai fare, però d'altre parti Sì, quello sicuramente, però ognuno ha hai i i suoi propri perché, motivi. anche Sì. se sono inspiegabili, delle volte bisogna tenere conto di questo, bisogna tenere conto che magari quella persona è talmente tanto in uno stato particolare, uno stato di depressione o altro, che non può far altro, cioè che non vede nient'altro che quello, e bisognerebbe che ci fosse qualcuno a dire: no, guarda che stai sbagliando, che c'è Ci altro sono nella altre vita. soluzioni, sì, però E il comunque. problema però è che molto spesso queste persone si riducono alla solitudine, al Sì, chiudersi dentro, quello e che a ti stavo volte per non si può dire. intervenire. La colpa può ricadere anche sugli altri, delle volte, o si colpevolizza, ma non è affatto così, nel senso è un gesto personale. Il suicidio è ovviamente un gesto Sì, poi comunque personale. potremmo collegare il discorso anche al bullismo psicologico, bullismo proprio vero e proprio, che costringe Sì, molti cioè. ragazzi a, appunto, a. Esatto, A tante di quelle suicidarsi. storie, ci Quindi sono tante di è quelle storie che pieno, sono è pieno, sentite. è pieno. Ci sono suicidi per mafia, suicidi, cioè ce ne sono davvero di tutti i colori. Però che noi a Catanzaro ne vediamo massimi, che magari tutti no, però la situazione a Catanzaro è un po' te, uno dei arcade, le persone che perché per debiti, per Ma ci diciamo sono ponti ovunque, non sì, solo a Catanzaro, sì, pure. sì. Ma cioè, basta anche mento, alla fine. No, no, no, non andiamo troppo triste, dai, Sì, va bene che non è dai. che sei una trasmissione, dato che poi abbastanza triste, ma no, poi No, dopo suicidio. sì, noi siamo. Cerchiamo di non dimostrare. Felicito, una buona. Vediamo. Dai, il pizzo. Allora, pizzo, Ciao, Giuseppe. pizzo. Ciao, Giuseppe. Allora, lui, perché se l'è fatto con un compagno di vita, che sono grandissimi. Sì. E Ah, no. poi la Complimenti, seconda, molto adesso bravo. ci sei tu, e c'è ancora una volta il pizzo, quindi. Evviva! Allora, non so se hai sentito un pochettino di cui stavamo parlando prima. Suicidi! Basta! Sorvoliamoli, sorvoliamoli. Facciamo basta, Vai. Sì, mettiamo un premio. Ok, allora, tu hai sentito qualcosa della band prima? Sì, mi ha fatto sentire un paio di pezzi. Ok. Erano belli, mi erano piaciuti, ma quali avete mandato fino adesso? Chi Allora, salutate adesso? per il momento abbiamo mandato un pezzo di, appunto, Kurt Cobain fatto da loro, Bruno Risas Bruno Risa. clip con il nostro amico regista che salutiamo, Roberto Tommolillo, che è di Tiriolo, quindi tutto made in Tutto Calabria. made in Calabria. Bella Ma la l'abbiamo ragazza è girato anche qui. calabrese? Sì, eh? La ragazza chi è? La ragazza è una mia collega. Ok. Allora, Pizzo. Dimmela. Allora, te la dico? Vai. Te la dico. Allora, te la dico. Adesso stiamo per mandare un pezzo loro che è un inedito. Bella storia. Non l'ha mai. Cioè, probabilmente l'ha sentito qualcuno nei live, però sia. Quantomeno su YouTube, giusto? Online, no, su YouTube non c'è, non Ecco. c'è proprio, Dato che non si. molti si fermano a sentire la musica su YouTube, si può dire che la maggior parte delle persone in questo fottuto mondo non l'ha sentita. E noi siamo fortunati, la sentiamo allora. La sentiamo, sì. Allora, Anzani Sanò, I fiori del male. Vai. Le tue labbra, scrivo alla vita e alla miseria in cui tuo padre mi hai lasciato. Nel cimitero un passo ti tiro la in ogni cosa fu come un veleno da ingoiare, da ingerire. E farò ovviamente morire alle fiume. Nei fiori del mare. Continuare a nuotare nella terra. ricordi e tutte le soluzioni riportarono alla condizione di bellezza del mio campo di fiori del male. Salami piccante, ci senti giù? Interferenza, anche ieri ha fatto interferenza. No, abbiamo problemi con lo streaming, semplicemente. Ecco. Salta la bobina e quindi, cioè, salta la connessione con quindi lo noi e quindi noi continuiamo. Noi la risolviamo così. Ormai siamo per una qualità migliore, comunque vedetevi e sentitevi lo streaming del podcast, in podcast. Perché appunto è una radio, cioè sono problemi tecnici che non possiamo riparare noi che andiamo in onda, quindi ci scusiamo per il disagio, come si suol dire, però il podcast comunque si sentirà bene, quindi quantomeno noi continuiamo tranquillamente, anche se non si sente bene lo streaming, poi ci salva il podcast, diciamo. Bene, bene. Ok, allora, abbiamo sentito i fiori del male, torniamo a noi. Sì. Pizzo. Allora, parere. Allora, mi è piaciuto, cioè io ho sentito praticamente l'introduzione perché poi sono stato a smattare per capire. Cazzo, se vero, sì, certo. ho sentito la bobina quella che saltava, quindi ho sentito qualche parola in realtà. Me la raccontate un po' questa canzone? Sì, sì, sì, vai, racconta il Mr. Giupi. No, niente, Fiori del Male, vabbè, è il nome di una raccolta di poesie di Baudelaire, ovviamente. Le Fleur du Mal. E il pezzo è molto carino, cioè, come nasce il pezzo è strano, perché sono tornato a casa, tipo erano le 2-3 di notte, e Lollo mi aveva lasciato una bottiglia di vino da finire. Oh, vino rosso! Quindi mi sono brecato proprio da solo. Ma vino rosso, giusto, sì? Tutto. Come? Vino rosso, giusto. Vino rosso, sì. Il vino bianco per noi calabresi non esiste, diciamo. Oh, no. Nemmeno per noi toscani, quasi, via. Quasi. E quindi, niente, mi sono messo a scrivere questo pezzo e lui mi ha trovato quando è tornato a casa, tipo alle 4 del mattino, in condizioni pietose. Non pietose. Non pietose, però, diciamo, non okay. Proprio è. E lui, subdolamente, me l'ha fatta registrare da ubriaco, quindi esiste un ebro version di questo. Oh, pezzo. Cazzo, la voglio. Allora, poi privatamente me la passi, dai. Non è caso, la prima parola del pezzo è ubriaco. Ubriaco. Comunque, no, alla fine è un pochino, è una canzone monica. Non è la prima, parla più che altro del padre di Baudelaire, che ho scoperto avere delle caratteristiche che sa, non ce l'ho detto questo pezzo. Vediamo cos'è Alici. Dici quando ti prendo. È una che abbiamo preso male. È stata io Intercabria e abbastanza diversa, però coabitiamo, come si suol dire. Quindi io buono. Bella storia. Allora, sì. I fiori del male, l'abbiamo parlato. È una situazione. Tutti quanti rido un tizio estemi, solamente loro è una ubriaca che mai fuma male. Io ho dei porti in alto. Non... Poi... Però comunque vabbè, per ne prenda, c'è già andato sicuramente. No, vabbè. Però tonnata, cioè. Allenamento di basket dopo, mi sto caricando. Perché il nostro Pizzo gioca anche a basket. È successa anche una cosa stranissima. Praticamente tutta la sua squadra, tutti gli altri della sua squadra, sto Pizzo costretto. Sì, onesto. Parlare di musica. Sì, no? Sì, dai. Sportivo. Sì, poi con grande sono come tanti sport. Non mi serve. Perché? Sono le pesate. allora, dici che ho sentito il tempo. Non cazzo sentito. Giusto. No. Allora, triste, alla fine dei conti è tristissimo, davvero. C'entra però l'arrangiamento è diverso, cioè non è come l'originale, per niente, anzi, è proprio una botta nei coglioni. Ma si può dire coglioni in radio? No, non si può dire, però dato che l'hai detto adesso lo diremo per sempre. Coglioni! Coglioni. Sdoganato la parola coglioni a Radio Wombat. Coglioni. Allora, sarebbe adesso meglio anche sei un personaggio a caso, di personale, ti ho conosciuta quasi per caso. Quella sera ero schivo, mi sentivo un po' male, ascoltavamo un disco di Celentano. Questo particolare non cambia lo stato delle cose, ma la perizia e l'insana passione con cui ti dedichi alla costruzione di scatole di cartone, questo sì che è determinante. Sorgono spontanee altre domande, ma cosa sono quelle pantofole a forma di elefante? Che ci faccio qui? Ammiro la tua collezione di scatole di cartone, di scatole di cartone. No, non lo voglio il tuo numero. Siamo a posto così. Se serve, se serve nel caso, se serve ripasso da qui. Non ti amo però, forse ti cercherò quando avrò bisogno di una scatola. Casa mia è piena di cose piccole che si perdono facilmente, ma quando avrò finito le mensole ti chiamerò, quando dovrò traslocare ti cercherò, ma dove andrò ad abitare? No, ma dove andrò ad abitare? Ma dove andrò ad abitare? Non te lo dirò. Quando la passione incontra l'idea, quando la logistica si è fatta dea, quando la passione la incontra e l'amore ai tempi dell'Ikea. Ecuba chi era per lui Enea, Euridice getta uno sguardo ad Orfeo. Ecuba chi era per lui amore ai tempi dell'Ikea. Il netto senza tara e bassa marea, tutto ciò che si distrugge e poi si ricrea. Il netto senza tara è amore ai tempi dell'Ikea. E l'immobiliarismo è una panacea, è mantra che si dischiude come ninfea. L'immobiliarismo è amore ai tempi dell'Ikea. Le mie scatole sanno di te, le mie scatole sanno di te, le mie scatole sanno di te, di te, di te. Le mie scatole sanno di te, le mie scatole sanno di te, le mie scatole sanno di te, di te, di te, di te. Non ti amo però, forse ti cercherò quando avrò bisogno di una scatola. Casa mia è piena di cose piccole che si perdono facilmente, ma quando avrò finito le mensole ti chiamerò. Quando dovrò traslocare ti cercherò, ma dove andrò ad abitare? Ma dove andrò ad abitare? Ma dove andrò ad abitare? Oh, bomba, bomba, bomba! Grande! Oh, grande! Ci sei? Grande? Mi senti? Sì, ci sono! Bomba! Grande. Ah, bombissima proprio! Bello sto piano! Wombat to Wombat proprio! Bello il piano! Grande, Lello! Questo è il mister Lello Anzani! Voce piano! Sì. Bello, bellissimo! Cioè... Sì. È triste, tristissimo. È triste, triste, tristissimo. A me c'è una cosa che piace di tutto ciò, è che te ribadisci sempre triste, triste, triste durante questa intervista, diciamo. Però è bello, però lo dici ridendo, sì. Cioè, quindi, Ma siamo tristissimi. Ah, così. No, vabbè, perché abbiamo una Ma tristezza, cioè per dire, il live che abbiamo fatto giù si chiamava Il Piccolo Centro di Gioia e Felicità, ed è un modo, è un'autoironia, sì. Quindi noi sappiamo di essere molto tristi, però dobbiamo scherzare, poi siamo in due, abbiamo sempre questa cosa, infatti mi sento completamente da solo io, senza Lello. No, peccato, perché insomma si sente che, era bello fare che nelle canzoni ci mettete qualcosa entrambi, no? Quindi cioè nel arrangiarla, cioè la voce è molto espressiva, ma insomma ci ho fatto anche tutto dietro strumentale, che si sente insomma l'altro, insomma è bello, bello pesante, cioè non è cioè, di accompagnamento, sentono, insomma si sentono tutti e due. Sarebbe come... stato molto carino sentire un po' di commenti, sì. Testuali di non lo so, Mr. interpretazione Lello. Canora da parte tua e di interpretazione pianistica da parte delle Lanzani. Esatto. Sì, nel senso, alla fine io non ho mai studiato nessun canto, nessuna cosa, perché comunque io mi sono riscoperto a scrivere canzoni. Alla fine ho detto, piano piano suonando la chitarra, passando il tempo, ho cominciato ad adattare la voce. Ecco, la mia voce è d'accompagnamento, mentre invece la musica, essendo Lello musicista, avendo uno sguardo esterno, quando gli porto un pezzo, lui è molto chiaro, mi dice... questo va bene, questo no, e comincia già a immaginarsi degli arrangiamenti. Grande. Quindi poi si butta al piano, oppure con qualche plugin, con un paio di archi di sotto. E se la vede lui. Lui suona anche chitarra, basso, batteria, insomma, c'ha una gamma di scelta che è molto varia. E quindi alla fine la cosa bella è proprio perché io gli scrivo e lui li arrangia, quindi abbiamo due idee diverse che poi alla fine confluiscono in un unico brano, che a volte ci soddisfa, a volte un po' di meno, insomma siamo lì. Cioè, bello, bello, bello. Ma io, sì. vai, ma suonate sempre voi due o delle volte, non lo so, fate Attualmente noi siamo... Attualmente siamo solo noi due, io sono chitarra e voce, lui fa chitarra semiacustica e pianoforte, però non è detto che prossimamente ci si aggiunga un bassista, perché il nostro storia. Regista Roberto Tomolillo è anche bassista, che ha già messo un paio di... Attenzione che qui volano belle notizie, notizie fresche. Sì, sì, ma già ha collaborato con noi, oltre per il videoclip, anche abbiamo suonato spesso insieme, ha messo già due o tre giri di basso interessanti ad alcuni pezzi, quindi alla fine poi beviamo sempre ogni sera insieme, quindi ci vediamo, ci troviamo e facciamo la sagra dell'alcol. E ci prechiamo. Abbiamo capito che questo dettaglio è particolarmente importante. Sì. Se non ti ubriachi non puoi suonare con loro, suppongo che No, la maggior parte dei pezzi, il 75% dei pezzi che ascolti è scritto da Brillo. Chi è Brillo? Il cane se della... Se voi lo dichiarate, almeno la dichiarate, siete sì, sinceri cazzo. Fino in fondo. Aia la miseria, è davvero da dire stavolta, aia la miseria, è giusto che sia così. Aia. Io ho un piccolo aneddoto sul discorso del poliglotta, poi andiamo con la prossima canzone, anzi poi ci racconti un secondo l'amore ai tempi delle gare, che cosa è per te, e poi andiamo con l'altra canzone. Comunque il piccolo aneddoto è, primo concerto di una mia band che si chiamano Gli Innominati, anzi ci chiamiamo Gli Innominati, arriva mia nonna mentre il concerto già stava andando verso la fine, vedi che praticamente il mio bassista filippino, Mr. John Paul, che saluto, è passato da suonare il basso e poi suona la chitarra. Vedi che mia nonna allora fa: oh Giova, ma sto bassista toi è poliglotta. Io lo guardo e gli faccio: no, ma no, poliglotta, polistrumentalista magari. No, poliglotta, poliglottista. Sì, quello che... cioè, io mi sono fatto... Cos'è il polistrumentalista? Vabbè, scusate... di amore, non lo so che cosa bellissimo, dico. Ancora meglio così, è uscito l'aneddoto. Okay. E quindi niente, ci stavamo mangiando delle risate, cioè mentre stavo cantando è arrivata mia nonna, è un po' l'istrumentale, è un po' l'icolotta, e mi stavo ammazzando dalle risate, davvero assai. Va bene, allora, amore ai tempi dell'Ikea, per te che cos'è? No, vabbè, Amore ai tempi dell'Ikea è una canzone che mi ha fatto scoprire un nostro amico comune un po' di tempo fa, che è Sid Jaimo, lo sappiamo. Oh mio Dio, Una tascia grossa, sì, tu. No, no, che viene le palpitazioni, mi vengo. E da lì poi gliel'ho fatto scoprire anche a Lello e ci piaceva molto il testo, però quando ci siamo messi ad arrangiarla, è partita la tristezza. Alla carica! Facciamo la triste. È partita il Lello malinconico che vive in lui costantemente e anche in me. E allora abbiamo detto, vabbè, dai, facciamo anche mezza parlata. Ho pensato, poi alla fine sono riuscito a intonare qualcosa. Sì. E quindi posso dire diciamo a mani basse, forse perché siete anche una delle poche band / persone che hanno provato a fare una cover rifacendola, come questa dello stato sociale, posso dire che è la migliore che abbiamo sentito, ma ti ripeto tutte quelle che ho sentito prima d'ora sono più o meno tutte con la chitarrina da sole, quindi poco sfoglia, quindi per il momento avete la palma della migliore cover che abbiamo sentito dell'amore ai tempi dell'IKEA, ma capace che cambierà tutto fra domani, dopodomani e tutti gli altri giorni presto. Sì, allora facciamo così, mancano 8 minuti alla fine della trasmissione, siamo stretti. Andiamo, si va con l'ultimo pezzo. Giupi, vai. Poi chiamalo che ti sto aspettando protagonista. Sì. Ok, vai, proviamo. Poi ci proviamo, vediamo che succede. A dopo. Nel frattempo vorrei essere Pessoa, signore e signori. Vorrei baciare le tue labbra e morire sui tuoi seni, accarezzare il tuo profilo quando hai gli occhi chiusi e sereni, dirti che sei il mio amore infinito come un romanzo di Aldo Nove, fingermi solo in questo universo come fanno gli altri, come fanno gli amanti. Vorrei costruire un libro e scriverti dentro, usando con le parole l'inchiostro del nulla, perché dal nulla siamo nati così soli, perché nel nulla il nostro tempo non è esistenza, ma soltanto essenza. Vorrei essere Pessoa, vorrei essere Pessoa, vorrei essere Fernando Pessoa, per fare di te, per fare di me una letteratura. Vorrei essere Pessoa, vorrei essere Pessoa, vorrei essere Fernando Pessoa, per fare di te, per fare di me una letteratura, una letteratura, una letteratura, una letteratura. Una casa e una bambina che abbia i tuoi occhi e il colore del tuo sorriso, quel sorriso che mi ha spinto a separarmi dal resto e dagli altri, da tutti quegli altri che vivono in me. intrappolarti dentro un sogno, indagarti tra due righe scritte a fondo, ma quel che sono, ciò che sono, io non so, è quel che sei, sei per me, tu non puoi, tu non puoi. Vorrei essere Pessoa, vorrei essere Pessoa, vorrei essere Fernando Pessoa, per fare di te, per fare di me una letteratura. Vorrei essere Pessoa, vorrei essere Pessoa, vorrei essere Fernando Pessoa, per fare di te, per fare di me una letteratura. Vorrei essere Pessoa, vorrei essere Pessoa, vorrei essere Fernando Pessoa, per continuare, continuare a sentire tutto quanto. Vorrei essere Pessoa, vorrei essere Pessoa, vorrei essere Fernando Pessoa, per provare e per riuscire a non sentire più niente, non sentire più niente, non sentire più niente, non provare più niente, non provare. Provare più niente. Hey. Ehi, sì, ci sono. Oh, che bella questa canzone, che bella, che bella, che bella. Ah, grazie. È la mia preferita, lo sai, ti ho fatto anche un video. Troppo, troppo, troppo bella, troppo, troppo bella. Oh, allora, Pizzo, che ne dici tu della canzone? Bella storia. Bella storia? Bella storia, bella storia, bella storia, bella storia. Ottimo, ottimo. Ottimo, allora, giù. Sono arrivato ai momenti dei saluti. Sono arrivati i momenti dei saluti. Noi qua ti salutiamo. Yeah. Ciao. Il Pizzo ti saluta. Ciao, ciao Giù. È stato un piacere averti con Stacci noi. Su, Giù. Stacci su, Giù. Oh, ti salutiamo, grazie a tutti quanti gli ascoltatori che sono stati qui su Music Vox Populi. Alla prossima. Lello! Ehi! Oh, la prossima party palle, c'è Lello, c'è! Ah, eccomi qua, eccomi qua. Ciao, se devo rimorire di freddo qua fuori, invece ci sono. Abbiamo tutti quanti, oppure forse no. Ecco, cosa? Abbiamo praticamente trollato tutti quanti, forse, perché tecnicamente avevo dato come se fossero i saluti conclusivi, che la puntata stesse per finire, e invece Lello. Surprise. E invece ci sono io, alla fine, dulcis in fundo, eccomi qua. Allora, come abbiamo potuto sentire già dalla voce di Mr. Giuseppe Sanò, tu sei quello che compone tutto quanto, quindi dovevi assolutamente esserci. Perché tu sei il vero musicista di questa band. Addirittura, addirittura. Lo dirà lo stesso Giuseppe, suppongo, perché è davvero tanta, tanta roba. Sì. Mister Lello Anzani. Sì, allora, Giuseppe mi fa tanta pubblicità in realtà. Vai, vai, dimmi, dimmi. Perché della verità è tutta giusta, tutta motivata. Dai. E io lo ringrazio e ringrazio tutti quelli che la pensano come lui, veramente. Grazie, grazie, grazie, grazie. Dimmi tutto, fammi domande. Facciamo finta che io sia davvero un musicista e che quindi tu mi fai delle domande e io ti rispondo. Allora, per prima cosa ti presento il Pizzo. Pizzo, ciao! Allora, lui è il Pizzo. Ciao! Allora, è un mio amico toscano di Radio Wombats. Evviva! Che sta sempre dalle parti della sì, vabbè. Della, a giro, a giro, a giro, a giro, a giro, a giro, a giro. E niente, Come sei il pianistone te? Sei quello che ha fatto quella parte di piano bella, cioè, ho sentito un paio di canzoni, un piano che sembrava fatto da uno che poi ci cantava sopra, cioè nel senso si univa molto bene alla voce, ho sentito. Siete parecchio amici te e cosa, cioè insomma si sente che ci lavorate parecchio insieme anche insomma su questi pezzi. Ok, si sente che lavoriamo molto insieme, dici questo perché ti sì. Sento un po' lontano. Ok, sì. Che ci pensate a come integrare la voce con il piano, insomma. Si vede che c'è attenzione, insomma. Ma mi fa piacere che pensi questo perché alla fine è lo scopo che si vuole raggiungere, cioè nel senso quando tu decidi di usare il pianoforte invece delle chitarre normalmente che si usano nel cantautorato, vuol dire che c'hai un'idea del pezzo e che quindi credi che il cantato si sposi bene con le parole con un pianoforte. Quindi se riesce c'è è fantastico. Un pianista bravo di solito, cioè te sei bravo quindi insomma mi è piaciuto, ecco. Se ci prova qualcuno che non sa suonarlo il pianoforte non viene. Fa una cagata pazzesca. Esatto, viene anche una cagata pazzesca. No, però comunque io volevo sottolineare un complimento che ti ha fatto il Pizzo, che è passato un pochettino in sordina. Anzi, è un complimento che ha fatto ad entrambi. È stato sembra che addirittura suoni una persona sola. Suoni una persona sola, perché andate perfettamente all'unisono. Cioè io non che lo bello, so, questo io purtroppo non l'avevo sentito, altrimenti ti avrei ringraziato ancora di più. In effetti te l'ho girato subito. Cioè io non lo sapevo chi è che cantava e chi è che suonava, insomma, non è che vi ho sentiti mai suonare live o che vi conosco, quindi sapendo un cavolo, sentendo quel pezzo lì, dicevo, ah, questo è bravo, sì, poi mi ha detto, no, ma sono due, così, ha detto, ah, porca miseria, sono bravi a maggior ragione, perché, insomma, Ti ringrazio e ti dico che lo scopo davvero è esattamente quello, cioè io quando canta Peppe e io sto lì a suonare cerco veramente di respirare insieme a lui, cioè nel senso di andare insieme nella stessa direzione, io accompagno. Si sente, è una cosa molto bella accompagnare più che fare i virtuosi e i simpatici. Sì, mi fa piacere che tu dica queste cose anche perché io la penso esattamente alla stessa maniera, cioè che nel senso in una canzone, no, diciamo testo e musica devono andare insieme, nel senso devono accompagnarsi a vicenda, ecco, per dare un senso vero a un pezzo, almeno di tipo diciamo pseudo cantautorale, cioè nel senso che comunque in italiano nella lingua che conosciamo sì. Con una determinata enfasi, ecco, io credo che insomma l'attenzione al testo si sente parecchio da parte di tutto il resto del contorno musicale, ecco, esatto, cioè lo scopo di un accompagnatore bravo è proprio quello di far risaltare la voce, il testo e di stare al suo posto, ecco, se uno riesce a stare al suo posto vuol dire, guarda, ho capito di stare crescendo un pochino musicalmente quando ho realizzato che bisogna andare, come diceva Michelangelo, per via di levare e non per via d'aggiungere, cioè togliendo note, certo. Mettendo l'indispensabile e non invece strafacendo i rigori vari, ecco. Certo, ma io credo sia un percorso anche comune a molti, cioè a un certo punto si tende sempre a soli stramega a infilare 100.000 note, sì, e poi ci si rende conto che la dinamica in realtà è forse la cosa più importante che fa funzionare è tutto, penso. Certo, è tutto. Sì, basta vedere appunto poi tutte le altre band che c'è sempre il membro solista che poi si esibisce in soli. Ah, ci può essere il momento strumentale, cioè deve venire fuori anche lo strumento, però a me piace veramente, e nel senso lo sottolineo un'altra volta, poi basta, nel senso perché ne abbiamo già detto molto, piace molto veramente come riuscite a far coesistere e a far arrivare sia la voce che il piano, perché nel senso ti portano, alla fine no, la musica è fatta per portare emozioni come tutte le arti, certo, no? E quindi poi ti portano nel momento la parola giusta con sotto l'accordo giusto suonato al momento giusto e con il volume giusto anche e ti fanno più effetto, ecco, sì, esatto, rispetto a leggere il testo. È bello addirittura, sono contento, grazie. Ma poi comunque concludendo, perché poi stiamo andando un pochettino troppo lunghi, Mi dispiace tantissimo perché vorrei tantissimo parlare con te perché sei un pozzo di sapienza, secondo me, riguardo la musica. Addirittura. Secondo me sì, ma per il semplice motivo perché, cioè, non riesco a trovare la parola giusta. Il discorso è che comunque se uno riesce, secondo me, a far combaciare voce e testo, voce e musica, tutto quanto, insomma, e addirittura persone estranee dicono: oh, figo questo qua che suona da solo, ma chi è, un one man band? Perché si chiama? No, capito? Cioè, secondo me se uno riesce a fare una roba del genere, per me ne sa tantissimo. Uno sa suonare tutto quello che suona. Due, e terza cosa, cioè, sì, ti ringrazio, ci si prova a suonare più strumenti possibili, sì, e a vedere cosa ne viene fuori. Strumentisti, io no, non sono mai stato, cioè, nel senso, vi invidio tantissimo a tutti quanti. Vive voi, suonate tanti strumenti. Viva. È vero, anche io non sono mai riuscito a suonare un cazzo, però comunque. Bravo, uguale. Però dai, diciamo che anche io ho lo stesso discorso del Mister Sanò, riesco a comporre qualche testo, ma poi mi servirebbe la musica, vediamo. Un pochettino, vabbè, poi dai, ci mettiamo d'accordo magari. Sì, dai, Lello, sarebbe un piacere grandissimo. L'arrangiamo insieme. Questi qua poi sono discorsi miei, poi magari ce li facciamo tetta a tetta, come si suol dire. Per il momento, dicono i francesi, tetta a tetta. Tetta a tetta. niente, Lello, è stato un piacere immenso sentire anche te in questa seconda puntata di Music Vox Populi. Ti ringrazio, è stato per me essere ospite da voi. Oh, allora, non possiamo fare altro che salutare tutti i radioascoltatori e ricordare stasera per Salello.